benvenuti, benvenuti anche il signore. Siamo lunedì, iniziamo una settimana intensa anche dal punto di vista della storia locale. Abbiamo con noi questa sera, e lo ringrazio già in anticipo, il professor Marius De Biasi, insegnante presso le scuole medie a Salona per tantissimi anni, conosciuto, e che si occupa di storia con grande passione, con grande interesse e anche con grande professionalità. Questo non è il primo libro che ha scritto, non è la prima ricerca che ha affrontato, ma ne abbiamo altri anche qui in biblioteca, e siamo contenti che questa sera ci offra l'occasione per conoscere appunto la storia degli Schützen, una storia che riguarda da vicino questo territorio, il nostro territorio. Abbiamo allestito una vetrina tematica legata a questo tema, e qui alle mie spalle ci sono altri documenti, vi permette per approfondire, e comunque ci siamo sempre anche noi a disposizione per aiutarvi per eventuali ricerche e per altre letture. Ma in primis l'argomento di questa sera sarà proprio il libro Storia degli Schützen, la difesa territoriale nel Tirolo storico e il ruolo degli Schützen dalle origini ai giorni nostri. Ecco, siamo contenti, il libro è molto interessante, è corposo, ha un apparato iconografico molto bello ed è accompagnata a questa presentazione anche appunto da alcune slide, da alcune immagini che ci ha preparato l'autore, che ringrazio. E sì, è un periodo dove noi ci stiamo concentrando di nuovo sulla storia locale, proseguiremo per alcune settimane per arrivare poi a maggio, dove dedicheremo le nostre attività alle scienze, alla fisica e alla matematica. Però questo è un piccolo spot, una sorpresa. Le puntate successive daremo ulteriori informazioni. Certo, grazie anche di avermelo ricordato. Il professor Marius De Biasi ha portato con sé numerose copie del volume, e quindi chi fosse interessato alla conclusione di questa serata può venire a questo tavolo e riceverà una copia omaggio del volume, che è appunto pubblicato dalla stampa della regione, quindi non è in vendita, è a disposizione di tutti. Insomma, io l'ho ricevuto per dargli offrire appunto a chi ha gli interessati in occasione di questa cerimonia. Ecco, allora grazie, le cedo la parola. Grazie. E buona serata a tutti quanti anche da parte dell'assessore Tomasini. Grazie. Beh, benvenuti a tutti, ed è un grande piacere per chi insomma presenta un suo lavoro vedere tanta gente che si interessa alla storia dell'Adige e alla storia del suo Tirolo. Come è nato questo libro? Perché è nato? Perché purtroppo insomma, è una realtà di fatti, cioè, soprattutto nel mondo di lingua italiana c'è poca gente che è, diciamo così, che ha avuto la possibilità e l'occasione di accedere alla storia italiana, alla storia di questa terra, che tra poco saranno 100 anni che è diventata parte dell'Italia. E purtroppo, come dicevo, tante parti della storia del Tirolo sono ancora, e del suo Tirolo, sono ancora poco conosciute. E io, che mi trovo a cavallo tra due culture, mi trovo a cavallo tra la cultura italiana e la cultura tedesca, ho voluto mettere a disposizione questa mia funzione, diciamo così, di ponte per il mondo, per il gruppo, per gli italiani che appunto sono interessati alla storia del Sud Tirolo, e sono interessati alla storia di questa terra, che è una storia estremamente interessante e ricca, di un popolo che può attingere le sue tradizioni, la sua storia, i suoi miti, da 700 anni di storia in Italia, che è una cosa assolutamente unica in tutto il panorama europeo. Se voi pensate, per esempio, che so, alla Borgogna, che se pensate ad altre entità politico-territoriali europee, cambiava il reggente e cambiava stato, cioè l'Europa è stata composta fino ai secoli prima dei nazionalismi, della nascita degli stati nazionali, le entità politico-territoriali molto, molto, molto frammentarie, se pensate al mondo tedesco per esempio, e che appunto passavano di signore in signore, di nobile o di a seconda delle convenienze politiche. Il Tirolo invece può attingere, come dicevo, le proprie radici e i tirolesi e sottirolesi possono attingere da un pozzo molto profondo che, come dicevo, sono 700 anni di storia unitaria, dal 1248 o 56, a seconda di come si considera la data di nascita del Tirolo, fino ai tempi di Mainardo I, e l'identità dei tirolesi si riflette anche, e tutti noi lo sappiamo, nel Schützen. Ed avere quindi una storia degli Schützen è una cosa, avere una storia degli Schützen è una cosa, diciamo, estremamente utile. La cosa interessante che ho potuto verificare, che mi ha anche sorpreso, devo dire la verità, è che non esiste neanche nel mondo di lingua tedesca una storia unitaria che parta dal momento in cui si può parlare di difesa territoriale della Contea di Tirolo fino ai giorni nostri. Sicché nella sostanza, i numerosi libri che sono del resto qui, in parte sono qui esposti, che sono tutti citati in questo lavoro, nella sostanza ho dovuto pescare le notizie, le idee e le cose, le notizie riguardo appunto la difesa territoriale da una biblioteca estremamente vasta ma molto frammentaria. Esistono a proposito di Sottirolo ancora una serie di, diciamo così, di pregiudizi. Io ho voluto iniziare questa serata appunto con questa prima immagine di un articolo che è comparso sull'Alto Adige il 27 gennaio, quindi pochi giorni fa, e se voi vedete per esempio questo articolo c'è scritto che i corpi degli Schützen, compagnie territoriali di autodifesa, furono istituiti dall'imperatore Massimiliano d'Asburgo nel 1486, insomma in questi anni. E questo non è vero, tanto che, come dicevo, non è vero, ed è poco conosciuta questa cosa anche nel mondo della lingua tedesca, per quanto strano possa sembrare, tant'è vero che in questo articolo di Dolomite finalmente incomincia a sedimentarsi anche, diciamo così, nuove acquisizioni storiche e storiografiche che riguardano gli Schützen, Massimiliano I, l'Antlibel, eccetera, di cui vi parlerò naturalmente nel corso della conferenza, che sono state scoperte 20 anni fa. Penso per esempio all'opera di Martin Schenner, che ha dimostrato cose riguardo gli Schützen che sono diciamo, al di fuori, diciamo, dei miti che tradizionalmente vengono portati avanti. Per esempio, poche persone sanno cosa fosse la milizia, e poco si sa del fatto che gli Schützen sono, diciamo così, è possibile capire la storia degli Schützen soltanto se si sa cos'era la milizia. Vado avanti. Nel 1803, con il recesso di Ratisbona, il Trentino, cioè il Principato di Trento, passò, erano i tempi di Napoleone, che era diventato imperatore, passò sotto l'Austria. Esisteva nel 1805 la possibilità che un tale di nome Giambattista Gasperini, di Villa, soldato delle milizie di difesa territoriale che esistevano anche nella parte di quello che allora si chiamava il Belstirol, e che poi diventò appunto la parte dell'unità del Tirolo, c'è la possibilità che questo Giambattista Gasperini, che era un possessionato, un benestante, possa mandare come proprio sostituto a combattere un tal signore Gino Baldessarini di Molini, il quale qui presente assume l'incarico a suo pagamento, cioè Giambattista Gasperini lo paga per questa cosa, e questo signore andrà a fare la guerra al posto suo. E siamo ai tempi napoleonici, quindi era anche abbastanza pericoloso presentarsi come miliziotto o miliziano a quel tempo. Questo per dirvi che anche in Trentino si sa poco o niente di queste cose, sono pochissimo note, pochissimo conosciute queste cose, eppure fanno parte della vostra storia, anche della storia del Trentino. Passo subito a questa cosa, soltanto per spiegarvi cosa intendo dire di questa storia. Allora, per riuscire a capire la storia della difesa dei territori degli Schützen, bisogna fare una serie di premesse che nel libro naturalmente sono fatte. Io toccherò alcuni di questi punti, diciamo così, in modo molto così, con dettagli, insomma, molto, molto veloci anche. Nel libro Pensiero sono descritti, ma bisogna sapere cosa era la difesa territoriale, che è questa parte qui sopra, cosa erano le condizioni dei contadini che arrivano poi fino ai giorni nostri, e chi erano i cosiddetti Scheibenschützen, oppure i tiratori iscritti nei casini di tiro del Tirolo, i quali confluiscono in un, diciamo così, questi tre elementi, quindi gli Schützen, diventano parte della, diciamo, della difesa territoriale tirolese soltanto a partire dal in modo compiuto 1703. Questa cosa ve lo spiegherò. Prima gli Schützen, come li conosciamo oggi, e come li conosciamo oggi inizierà soltanto attorno a questa, in questa fase qui, vi spiegherò poi per quale ragione. Prima di questo momento qui parlare di Schützen è assolutamente sbagliato. Non esistono Schützen se non come tiratori dei casini di tiro, cioè iscritti nei casini di tiro, che erano associazioni private. Andiamo avanti molto velocemente, diciamo così, io adesso vi farò una brevissima riassunto, diciamo così, della parte che riguarda la difesa territoriale e che riguarda il mondo contadino, perché senza tirolese, perché senza capire queste due cose è estremamente difficile capire poi per quale ragione in questa terra, nel Tirolo, nasca un, diciamo così, un sistema di difesa territoriale talmente unico in tutta Europa di quel tempo, cioè laddove, diciamo così, la caratteristica fondamentale era quella di un sistema ibrido, diciamo così, tra milizie e tiratori iscritti di casini di tiro, che esisteva soltanto in questo posto qui che si chiama appunto Tirolo. Quello che vedete qui è la divisione dei, diciamo, dei domini degli Asburgo al tempo in cui Federico II, che è il primo Asburgo che governerà il Tirolo, il primo Asburgo residente in Tirolo che governerà il Tirolo, Federico II Asburgo governava, era erede di tutta questa parte qua, la Svizzera. Nel libro c'è anche scritto quale ruolo ha poi la Svizzera, che è estremamente importante nella definizione del sistema di difesa territoriale, come diciamo così, pietra di paragone. Governava tutta questa parte qui, che sono gli antichi domini svedi degli Asburgo, il loro castello è da qualche parte, eccolo qui, da qualche parte qui, insomma, eccolo qui, il castello di Asburgo, questo qui. Lui dominava questa parte qui, mentre gli altri suoi due fratelli, Alberto in questo caso era Alberto III di d'Austria, e in questo caso era suo fratello Ernesto, questi tre fratelli diventano, diciamo così, naturalmente gli eredi dell'Asburgo, e qui inizia la divisione, diciamo così, dinastica dell'Asburgo, che dura 100 anni fino a Massimiliano I. Ora, Federico IV, che è questo Federico IV, questo signore qui, per 22 anni, fin dal momento del suo insediamento, viene combattuto dal fratello, da un imperatore, dai nobili locali che cercano di togliergli la sua eredità. Lui riuscirà, Federico II, riuscirà a difendere la propria eredità unicamente perché si riferisce e si appoggia ai contadini tirolesi, ovvero ai contadini che erano presenti nelle 60 circa giurisdizioni tirolesi, eredità di precedenti condizioni fino ai tempi di Maniano II. E come dicevo, anche lì andrete a vedere poi nel libro come si sviluppa questa storia. Perché nel 1200 e 1428, diciamo così, nello scambio io ti difendo, io difendo la contea e quindi anche i miei interessi, e difendo anche nel contempo il mio conte, in questo scambio avviene, diciamo così, una fissazione di tradizioni di libertà sostanzialmente, anche queste uniche in Europa, che hanno le libertà, le favorevoli condizioni contadine. I contadini tirolesi unici in tutta Europa non erano servi del gleba. Ora questi finiranno per nel 1228 partecipare per la prima volta in modo compiuto a tutte le la prima, diciamo così dire, propria contea provinciale, e da allora in poi per 200 anni i contadini parteciperanno a pieno titolo soprattutto per approvare il prelievo di tasse straordinarie per la difesa. Voglio dire, esiste qualcosa in uno Stato che sia più importante dei soldi che servono per la difesa? Ecco, i contadini faranno parte come Stato, attraverso loro, i rappresentanti delle loro giustizioni, faranno parte di questa, diciamo così, di coloro i quali a Innsbruck decidevano cosa poteva e non doveva essere fatto. Quando i contadini dicono di sì è perché in genere poi ottengono in cambio di questo sì una serie di altre diciamo così, garanzie, la prima delle quali è quella che sarà rispettata la Costituzione provinciale tirolese, che prevedeva che sui beni contadini, sui masi chiusi, ma anche qui è una storia molto più lunga di quanto non si possa descrivere in una serata, la garanzia che non saranno aumentati i canoni, perché questo prevede la Costituzione tirolese del 1404, alcuni anni prima che questo signore, che Federico IV, andasse al potere, concessa da suo fratello. Come dicevo, i contadini tirolesi finiranno per partecipare e parteciperanno d'ora in poi alla definizione alla raccolta delle tasse attraverso il loro assenso. Erano quattro gli stati, uno di questi era. E questa è una cosa unica, non esistono cose del genere. In Baviera non esisteva neanche, torno indietro, non esisteva neanche nei luoghi del Ducato d'Austria, né nella Stiria della Carinzia, che erano i ducati, diciamo così, degli altri due fratelli, dove esisteva ancora la servitù della gleba, che negli altri posti rispetto al Tirolo veniva abolita sostanzialmente dall'imperatore Federico II nel 1790, una roba del genere. Quindi erano ancora mentre qui i contadini partecipavano alle diete. Se voi mi chiedete da dove viene il fatto che in Nord Tirolo e Sud Tirolo Landeshauptmann, Landeshauptmann, come si dice in italiano? Dombalta, cos'è? Presidente? Proviene dal registro dei contadini, e la ragione è legata a una storia che ha secoli. Non esiste, che io sappia, in Europa un posto dove dei politici che provengono dal mondo più contadino abbiano avuto il potere come in Nord Tirolo e Sud Tirolo. Ecco, questa è una delle radici profonde. Allora, capire cosa sono, come dicevo, le libertà contadine tirolesi, che sono nate appunto nel 1928 e che sono parte integrante della difesa territoriale, vedremo come, significa capire anche una delle radici profonde della storia tirolese. Suo figlio di questo Federico IV, Tasca Vuota, è il famoso Sigismondo il Munifico, quello che tra l'altro inventa il silbo, quella moneta d'argento che sostituisce il talo, dal quale nasce il dollaro. Allora, il dollaro è stato inventato in Tirolo, tanto perché il talo, che è la moneta renana, viene copiata dai silbo, dall'equivalente in argento dei goldoni locali. Come dicevo, Sigismondo il Munifico si chiama appunto in ricordo del fatto che era diventato uno dei più ricchi principi territoriali germanici, per via del fatto che hanno trovato le famose miniere del Falkenberg nel 1448. Comunque, durante la fase del suo regno, anche lì mi limito soltanto a elementi essenziali e fondamentali, c'è l'espansione dell'impero turco, che attraverso due fiumi, la Sava e la Drava, minacciavano negli anni 71-79 di venire a e questa minaccia porta a fare in modo che in questa parte qui, che è l'alta valpusteria, avete presente il vediamo subito se riesco a trovarlo, si chiama il convento di Novacella, le mura esterne sono state fatte, quelle fortificate sono state fatte appunto per il pericolo che predoni, se questo non è un disegno dell'epoca, venissero a razziare, soprattutto ragazze, salissero, razziassero le ragazze e se le portassero come schiave, come diciamo così, bottino delle loro razzie verso il mondo ottomano che era in fase di espansione. Non voglio fare. Comunque, sta di fatto che torno indietro di un passo, proprio in questa parte qui, vediamo un po' se riesco a trovarla, in questa parte qui del Tirolo, vediamo un po', eccola. In questa parte del Tirolo qui, che sarebbe la Valpusteria, dove c'era la porta di accesso, e in tutta la parte orientale avvengano delle misure difensive che prefigurano quello che sarà successivamente la difesa territoriale. Sostanzialmente, attraverso la definizione del numero di persone che devono presentarsi alle armi quando ci sarà il pericolo, definendo giurisdizione per giurisdizione, e quindi anche i contadini saranno chiamati a partecipare alla difesa territoriale, cosa che altrove non avveniva perché bisogna spiegare subito, e poi anche i cittadini, perché coloro i quali portavano, diciamo così, il peso della difesa territoriale erano quelli che potevano appunto permettersi di acquistare le armi, eccetera, eccetera. Ecco, come dicevo, si precostituiscono e si predefiniscono qui, in questo luogo, e per questa ragione, alcune forme della difesa territoriale. Andiamo avanti, questo l'ho visto. Arriviamo al 1490, dove questo signore, che è Massimiliano I d'Asburgo, diventa il re di Germania e conte di Tirolo. Conte di Tirolo nel 1490, quando Sigismondo il Munifico abdica a suo favore, e lui d'improvviso si trova a disporre in questo suo territorio, il Tirolo, che gli è stato, diciamo così, dato in lui riunifica un po' tutti i domini che erano precedentemente divisi tra il ramo leopoldino, il ramo carenziano, il ramo albertino. Sostanzialmente le riunifica e diventa il erede unico di tutti i possedimenti della Casa d'Austria, e eredita anche il sistema difensivo che era stato fatto sia ai tempi di Federico IV sia ai tempi delle offensive del pericolo turco. Si trova, come dicevo, a essere il padrone di questo. E cosa dice? Lui è, dice, Massimiliano I, che spesso viene esaltato per quello che non è, tanto è vero che, diciamo così, nella storiografia germanica è considerato una persona che ha fatto più male che bene all'idea tedesca, all'idea della nazione, mentre in Austria, per ragioni diverse, naturalmente viene esaltato. Ma la sua figura non è affatto una figura univoca, e lui era aveva delle grandi visioni, era diventato re naturalmente, diventerà anche imperatore, e sulla base di queste sue visioni lui immaginava di riunificare sostanzialmente sotto il proprio scettro tutto il mondo il mondo tedesco, servendosi di quello, visto che i principi tedeschi, che non volevano sapere ad essere unificati sotto un Asburgo, non gli davano soldi, servendosi dei soldi di cui disponeva nei territori suoi. E nei territori suoi lui aveva anche a disposizione un sistema di difesa territoriale che aveva ereditato da quello che era successo prima, che è in Tirolo. Nel 1499, ed è l'anno in cui la Svizzera, ve la faccio vedere un'altra volta, vediamo un po' se riesco a trovarla. Vediamo un po' se riesco a trovare da lei. Ed è l'anno in cui, 1499, vediamo un po' se mi è scappato dove, eccolo qui, ed è l'anno in cui questa parte in rosso qui, che rappresenta il nucleo storico della Svizzera, dopo essersi allargata per ragioni che adesso sarebbe troppo difficile, troppo complicato e lungo a raccontare, proprio perché non vuole stare sotto Massimiliano I, che ha ereditato tutto questo dominio, si ribella alle tasse al Reichspfennig, in questo caso preteso da Massimiliano I, che in questa maniera voleva disporre di quei denari che gli sarebbero serviti per la sua grande politica, diciamo così, di grande sognatore. Tanto per farne un esempio, Massimiliano I, un altro esempio di carattere di questa persona, si era messo in testa di diventare papa, non sto scherzando, morta la sua seconda moglie, nella politica, diciamo così, imperiale italiana, uno dei suoi obiettivi era il tempo di Borgia, insomma era il tempo in cui purtroppo il papato era, diciamo, soggetto anche al potere temporale di gente estremamente spregiudicata, ma una delle cose che pensava di poter fare anche Massimiliano I era quello di diventare papa per svolgere in questa maniera meglio il suo ruolo di, diciamo così, per le sue ambizioni. Andiamo avanti. Nel 1499 c'è la guerra con la Svizzera e lui pensa di battere i mercenari svizzeri, che erano gente che aveva costruito l'unità della Svizzera e aveva allargato la Svizzera sulla base del fatto che le loro armate di mercenari erano invincibili, lo restarono per due secoli, tant'è vero che la Svizzera sorge attorno all'invincibilità dei suoi mercenari. Lui pensò di battere questa gente che queste compagnie di mercenari, che erano avvezze a uccidere, che erano, voglio dire, avevano fatto della guerra il loro mestiere, c'erano intere giurisdizioni in cui metà dei giovani andavano a fare i mercenari e andavano al soldo di tutta l'Europa a quel tempo. Lui pensa di mandare a combattere gli svizzeri con quel sistema che era stato messo in piedi per contrastare i turchi dall'altra. Infatti le giurisdizioni gli mandano un sacco di gente e in questo posto avverrà un massacro terribile. I mercenari svizzeri, come dicevo, che sapevano combattere molto meglio di quanto non pensano fare, della gente che era stata tirata via dalle campagne e mandata a difendere, a combattere in un posto che poi tra l'altro era lontano dai loro luoghi d'origine, ne vengono da Nord Tirolo, ne vengono dalla Posteria, ne vengono dalla parte del Bolzano, dalla zona di Merano. C'erano 6.000 per 8.000 persone e di queste 4.000 vengono massacrate. Se pensate che c'erano 60 giurisdizioni contadine, togliendo quanti i combattenti che erano stati offerti dalle città, in ogni giurisdizione c'erano stati 60 morti. 60 morti per giurisdizione, che significa che una parte del contadino tirolese, in tutti i masi c'era qualcuno che è stato semplicemente ammazzato dalle fisime di questo impero, di questo Massimiliano I, che mandò a combattere contro i professionisti della morte, che erano i mercenari svizzeri, un sistema che era totalmente incapace di affrontare una cosa di questo genere. Vado avanti, ecco, questo è un esempio del massacro, 4.000 morti ci furono, dicevano. Ecco, Massimiliano I, passiamo a questa fase, è anche l'autore del Landlibel. Il Landlibel, che abbiamo fatto vedere il primo ritaglio dell'articolo, secondo alcuni è descritto come il documento che fonda gli Svizzeri. No, non è vero. Questo documento fu innanzitutto un documento nel quale confluiscono tutto quello che era già stato fatto al tempo precedentemente in altre diete e in altre modifiche del sistema difensivo di quel secolo, confluiscono in questo documento e non è niente di nuovo dal punto di vista militare, perfeziona soltanto alcune cose, ma viene fatto sostanzialmente per promettere alle giurisdizioni tradizione tirolesi e agli stati tirolesi, e in questo caso anche ai principi vescovi di Trento, no? Che non avverranno mai più cose come sono avvenute ai tratti della Calva, dove c'è stato un massacro. Primo, verrà definito i soldi raccolti per la difesa territoriale tirolese non potranno essere impiegati per pagare mercenari che andranno a combattere fuori. Viene stabilito questo sì che diciamo l'origine è proprio questa, viene stabilito che per esempio chiunque abbia l'obbligo di difendere la patria, ed erano in genere i contadini di cui si parla, era quel 10% che possedeva i masi, che aveva i masi, che aveva potere, non erano i semplici Landknechte o Söldner, per esempio, che erano proletariato rurale. E neanche era proletariato del cittadino, coloro i quali dovevano andare a combattere al fine della patria erano quelli che avevano la possibilità di comprare le armi e potevano anche quindi mandare un proprio sostituto. Il Landknecht questo fa e definisce, ed è in questo senso è una diciamo così un perfezionamento di un sistema difensivo che già esisteva in precedenza. È un documento che permette e permetterà per tutto il resto dei secoli successivi in cui esiste questa difesa territoriale ai titolari del dovere difensivo di mandare dei sostituti. Il terzo elemento fondamentale, ed è questo che fa dell'antebella cosa questo momento più importante della storia del sistema difensivo, è che i contraenti di questo documento erano di rango imperiale. Da una parte c'era l'imperatore, dall'altra parte c'era il principe vescovo, e naturalmente anche. Non potendo essere cambiato da un accordo che non avesse contraenti di rango altrettanto, diciamo così, alto, il Landknecht finì per diventare il documento al quale tutti i principi vescovi di Trento si riferivano quando non volevano mandare la propria gente in guerra e non volevano dare soldi per guerra di cui non sapeva niente. Acquista il suo potere e il suo significato soltanto nel momento in cui c'è la recezione, quando viene recepito. Perché Massimiliano I, che aveva promesso che non avrebbe mai mandato un soldato o un mercenario arruolato con i soldi raccolti lì, fuori dai confini del Tirolo, chiederà per altri 17 diete, ne ha fatte 15 prima, e sono 32 in totale le diete che fa, o praticamente due all'anno le fece, continuerà, malgrado avesse promesso solennemente a mandare i mercenari a morire nelle guerre, nelle guerre italiane, infischiandosi naturalmente di quello che aveva firmato, e dell'Antibella in particolare. Tanto che si è saputo l'anno scorso, nel convegno che è stato fatto nel 500esimo, o due anni fa, 500esimo, un anno e mezzo fa, a Santa Chiara di Trento, organizzato dalla Società Locuta della Provincia Autonoma, per 500 anni, e al Museo del Buon Consiglio, i 500 anni dell'Antibella. Tanto è vero che si è scoperto che l'Antibella fu effettivamente sottoscritto su pressione del vescovo nel 1512, e anticipato al 1511 proprio perché non ne volevano più sapere di essere mandati in guerra di fuori dei confini, e che i soldi appunto anche del principato venissero utilizzati per guerre che non avevano niente che fare col Tirolo. Acquista la sua importanza dopo la morte di Massimiliano I e diventerà tanto importante, vi spiegherò perché, da permettere, questo sì, la nascita del sistema che io chiamo sistema di difesa integrato, milizia più Schützen, che è una cosa unica nel Tirolo. Ma siamo arrivati a metà della cosa, non abbiamo ancora parlato di Schützen, vi siete resi conto, no? Perché per capire chi sono gli Schützen davvero bisogna fare tutte queste cose precedenti. Allora, infatti adesso qui arriviamo a quello che erano gli Schützen. Vado avanti di due slide. Queste qui sono i casini di tiro. Vediamo un po', è ormai andato, vediamo. Togliamo questo. Lo fa faccio con il mouse. Lo vedete? Si vede? Sì. Questo, vedete il casino di tiro qui? Pare siano questi i bersagli. Questo è a Halle, in Tirolo, uno dei primi è testimoniato nel 1424. Questi sono a Brunico, nel 1581, eccolo qua, sono i casini di tiro. Erano, torniamo indietro, delle associazioni di benestanti, e sto parlando degli iscritti ai casini di tiro che andavano a sparare in quei casini che avete visto. Erano associazioni di benestanti, sostanzialmente cittadine delle città, che potevano comprarsi un fucile o nel primo secolo le balestre, e andavano a esercitarsi la domenica a questo sport che era il, come si chiama, lo sport oggi. Tanto è vero che a Arenon, quando io sono andato a chiedere se mi facevano la intenzione di mettere diciamo così nel libro il primo bersaglio, o in italiano tavolazzo, della Gira di Dio di Sopo Bolzano, che è del 1689, quindi insomma hanno festeggiato, mi sono accorto che non ha niente che vedere con gli Schwitz in questo. Ma come? In tutti i libri che ho lì, sì, che parlano di Schwitz, c'è questo tavolazzo come esempio di come si chiama? Guarda quanto sono vecchi gli Schwitz, che tradizione, e non ha niente che vedere. Questo signore, che è una persona di origine molto benestante, di origine nobile, che gestisce la gilda dei tiratori di Sobolzano, che ha festeggiato i 320 anni un paio d'anni fa di esistenza, allora, guarda che noi con l'uscita non abbiamo niente a che fare. Ma come? Ma insomma, allora da che parte? Lì ho capito che anche nel mondo del libro tedesco, di cose chiare su quale fossero l'origine, diciamo così, del sistema difensivo di cui fanno parte le notizie erano ancora poco chiare. Queste qui erano associazioni di persone che andavano a divertirsi a sparare. Punto. Ce n'erano poche, esistevano soltanto laddove i signori e i benestanti, e soprattutto nelle città, non ancora nelle campagne, non ancora qui in Tirolo, dove l'elemento dominante restava ed era restava l'elemento contadino. Tant'è vero che si chiamavano i Brettlboro, lo sport era il Brettlboro, cioè sforacchiare tavolazzi. In Trentino si chiamano tavolazzisti, la prima gita dei tavolazzisti è in Val di Fiemme, proprio tavolazzisti si chiamano, perché era sparare al tavolazzo. E diciamo così, le gare erano chiamate Hosenschießen, questa è una battuta, ma per dirvi, insomma, no? Che per chiarire un po' la differenza tra Scheibenschützen, cioè Schützen iscritti ai casini di tiro prima del 1700, e questi, gli Schützen attuali. Hosenschießen perché? Perché anche i duchi, cioè chi allestiva le gare, chi metteva a disposizione il palio, cioè quello che veniva messo in palio, dava molto volentieri del panno per fare i pantaloni. Balle di panno, che erano dei premi che venivano dati. E allora chi andava a queste a partecipare a queste gare vinceva una balla di questo tessuto e si chiamava Hosenschießen. Per dire che, guardate, che gli Schwitz, così come li conosciamo noi, adesso ci arriviamo, perché adesso, vado anche avanti per salti, perché altrimenti diventa troppo noioso, ma andrete a cercare queste cose nel libro. Nel 1605 nasce finalmente la milizia. C'è una riforma che parte sostanzialmente dai Paesi Bassi, che si diffonde in tutto il mondo in lingua tedesca, che sarà quella che, l'idea fondamentale è quella che colui il quale ha beni da difendere. Posso? Mi sentite anche senza? Sì, forse sì. No, perché dopo no. Colui il quale, mi sentite? Sì. Colui il quale ha beni da difendere, che sia esso cittadino, sia esso contadino, ha il dovere anche di difendere la patria. Questo è il principio che sta alla base dell'introduzione della cosiddetta milizia. Allora, per cent'anni succederà che Vienna farà di tutto per mettere in piedi la milizia, perché è quello il modo con il quale si è deciso di, ma non ci riuscirà mai a fondo, perché chiunque abbia o chiunque avesse un qualche, diciamo così, un qualche beneficio, un qualche, diciamo così, una qualche potere, un qualche anche potere economico, sulla base dell'andile che vi ho mandato, che vi ho fatto, che è stato fatto nel 1512, mandava un sostituto, perché era previsto. Sicché nella sostanza l'Landbel più la milizia significa che per 100 anni, fino al 1603 sostanzialmente, da quest'anno qui, si farà di tutto per metterla in piedi, e non si riuscirà mai a metterla in piedi, perché non c'è nessun benestante che va si prende, si compra il fucile, se lo carica in spalla, va al fronte e si fa ammazzare, mentre lascia a casa i servi, che poi a casa sua se lo ammazza lo fa quello che fanno, quello che vogliono. Era questo l'argomento che usavano. Ma come? Io devo lasciare a casa i servi, devo andare a combattere contro il nemico, e se mi ammazzano chi è? Sono i servi che poi... Uno degli argomenti con i quali dicevano di no, e diventa uno, vedrete, ce ne sono due pagine intere, è diventata l'istituzione più odiata dai tirolesi, letteralmente. Questa l'ha detto, non l'ho scritto, l'ho copiata da Fontana, che è un... che è uno storico tirolese molto importante, Josef Fontana, lo conoscerete probabilmente, che dice questo, lo dice anche Stolz, Otto Stolz, tanto, più odia, perché facevano tutto per farsi togliere da queste cose, non volevano farle, non volevano andare a fare servizio militare. Pensate cosa succedeva. Succedeva che, allora, viene e diceva bisogna fare le cose, allora le giurisdizioni, e le mice chi le paga? E la spago chi le paga? E le palottole chi le paga? Mettiamoci un po' d'accordo, perché è vero che c'è scritto che noi dobbiamo partecipare, ma non c'è mica scritto che dobbiamo portarci le palottole. Ma no, insomma, ci sono stati veramente tanti anni di discussioni, sostanzialmente un secolo di discussioni, per mettere in piedi qualcosa di assolutamente farraginoso, difficile, dove poi c'è anche un bellissimo aneddoto citato da quel signor Girardi, che è l'ultimo libro in fondo, lì, che dice... C'era addirittura in certe zone dove i malgari vietavano alla milizia di fare le esercitazioni perché gli spaventavano le vacche. E allora, c'è tanto di non potete sparare, vietato, perché altrimenti non riusciamo più a vendere le nostre, non abbiamo più latte da vendere. Non è uno scherzo questo. E questa era un'occasione per i rappresentanti delle, come si chiama, delle giurisdizioni, che erano contadini anche loro, di chiudere 1, 2, 3, 10 occhi quando la milizia non funziona. Si sparavano sì e no, un colpo all'anno. Un altro degli elementi estremamente difficili e critici era che chi veniva messo nei ruoli della milizia doveva essere presente alle esercitazioni che loro si immaginavano dovessero essere ogni 15 giorni o un mese. Perché se diventi la patria devi anche saper sparare, sì o no? È abbastanza ovvia la cosa. E quindi di fare le esercitazioni. Ma è una delle cose che poi si sono scoperte del limite. Facevano di tutto per non andarci, anche perché essere iscritti nel ruolo, dovevi andarci, sennò ti mettevano dentro. E c'era qualcheduno che doveva restare a casa, mentre era gente che magari doveva emigrare per trovare lavoro. Nel Trentino non ci riuscirà mai, nel Principato di Trento, cioè mai a fare la milizia così, perché c'era un sacco di immigrazione, tutti i maschi sparivano perché andavano a cercare lavoro, e chi era iscritto non ce la facciamo mettere in piedi la milizia, gli continuavano a rispondere. Quindi sono 100 anni di confusione, di difficoltà, al punto che una cosa sola funziona bene. E la vedete qui, questo è il cosiddetto Sturmpatent, la patente viene emessa nel 1647 ed è la patente che regola, e funziona bene solo per questo, l'obbligo senza pagamento, cioè per tutti, di presentarsi in caso di mobilitazione generale. Quando c'è la mobilitazione generale, tutti indistintamente hanno l'obbligo, armati di quello di cui dispongono, vengono elencate anche alabarde, forche, tutto viene proprio elencato quello che si poteva portarsi dietro, e devono andare a combattere portandosi provvista per 3 giorni e dopo da 3 giorni possono essere là. Questo sarà l'unica cosa che funziona perché non costava niente, perché potevi obbligare la gente a eccetera eccetera. C'erano difficoltà enormi a pagare, per esempio, i comandanti di questi, c'erano tutti i comandanti di queste compagnie della milizia, che io vi farò vedere anche, eccoli qua. Questi signori qua sono la milizia, appunto, è una compagnia di Landesschutz della prima guerra napoleonica. Voi vedete come erano vestiti. Vedrete poi, e questo lo farò vedere meglio in seguito, quelli che sono armati di fucile soltanto sono le prime due file. Tutti gli altri da qui in poi, guardate, da qui in poi sono armati di picche, asce, tocchi di ferro, pezzi di legno, falci, quello che c'è. Questo è un tipico esempio di una compagnia di milizia convocata raccogliendo tutti quelli che erano disponibili alla difesa. E siamo già nel 1796-97, praticamente nella prima guerra napoleonica, quando ancora non si sapeva che il giovane nobilotto corso sarebbe diventato poi Napoleone, la guerra d'Italia. Andiamo avanti. Questa è un'altra tipica compagnia di Schutz, che sarà del 1603, perché ci arrivo subito. Guardate un po'. Allora, con il fucile, questa è probabilmente un benestante. Qui un altro fucile, tutto questo è un tamburino, c'era tutta una serie di regole di come doveva essere fatte, ci doveva essere il tamburino, il pifferaio, queste cose qua. Guardate di cosa sono armati questi. Sono armati di bastoni, il bastone chiodato, un altro bastone per quella causa che serve per battere il grano. Insomma, voglio dire, questi con gli Schützen non hanno niente a che vedere. Ovvero, Schützen probabilmente saranno stati questi due qua, cioè il 5% della popolazione che partecipa alla divisione imperiale. E arrivo finalmente adesso anche a, come si chiama, finalmente a... al 1603, che è una data importantissima per proprio la storia, in questo caso sì, la storia delle Schützen. 1603, ed è l'anno della guerra, si chiama guerra di secessione spagnola, dove sia i bavaresi, che si erano messi d'accordo con i francesi, avevano deciso di scendere da nord, mentre i francesi salivano da sud per, diciamo, schiacciare il Tirolo, cioè per aggredire il Tirolo, volevano poi passare per la congiungersi, passare per la posteriore e andare su verso Vienna. E come dicevo, in questa guerra di successione spagnola c'è questo accordo tra questi due grandi bavaresi e francesi. Ora, in su Tirolo, in Tirolo c'era la milizia, c'era, ed erano 100 anni che si erano preparati a fare la milizia, con le esitazioni, il drill, e questo, e i soldi, e sparare, insomma tutto quello che era servito. La milizia ci lecca nel modo più totale. Cioè 100 anni non sono serviti un tubo di niente. Per 100 anni sono agitati, quando la prima guerra seria, vera, che viene fuori, si squaglia come leva il sole, ma proprio vera così, è vera questa cosa. Tanto è vero che in Nord Tirolo succede anche questo. I nord tirolesi della città di Innsbruck corrono in soccorso dei vincitori e vanno a dirgli benvenuti a Re di Baviera, venite così finalmente, eccetera, tutte cose qua, facendo arrabbiare in modo veramente terribile facendo arrabbiare d'arresto i rappresentanti delle giurisdizioni contadine e tutti quelli che si sarebbero dovuti aspettare scusate un attimo, che le truppe di passaggio avrebbero devastato il territorio, ed erano sostanzialmente i contadini, suscitando l'ira di queste persone, che si organizzano. Si organizzano attraverso il Landsturm, cioè attraverso la convocazione, la mobilitazione generale. Nella mobilitazione generale c'è il 5% di persone che devono andare, si erano fatti liberare dalla milizia e non volevano farla, quelli che avevano il fucile, cioè quelli proprio. Però lì, in questo caso, essendo che devono accorrere tutti, accorrono anche quelli nelle zone rurali, i contadini benestanti che erano usciti a comprarsi quel fucile e sparavano nei casini di tiro che si erano diffusi anche da partire dalla fine del secolo e nelle zone periferiche di campagna. Si portano come i loro fucili E avviene che in termini di autodifesa, essendo chiamati tutti assieme, ci sono anche un 5% di persone che sanno sparare davvero. E sono gli Schützen. Questi sì sono gli Schützen, ma sono Standschützen, scusate, sono Scheibenschützen, sono gli iscritti ai ruoli di tiro dei casini privati che, essendo stati chiamati assieme a tutti alla mobilizzazione generale, fanno parte della truppa che cerca, auto diciamo così, organizzandosi, di contrastare sia i francesi a sud sia i bavaresi a nord. A sud ci sarà l'episodio di Ranzo, descritto anche nel libro, e andate a vedervelo. Lo storico, sempre Girardi, dice l'improvvisazione regnò sovrana, per ovvie ragioni, insomma, no? Però tutto sommato anche lì quel 5% fa la differenza, e ci sarà un Kazan di Enya Schütze, di questo tipo di Schützen qua, che farà bene. Mentre a Nord Tirolo, a Pontlatz, questi signori qua, si organizzano, quelli col fucile si appostano su delle come si chiamano, su delle barricate, gli altri, torniamo un po' indietro, secondo, gli altri si mettono dietro a spaccare ponti, a distruggere strade, a buttare giù sassi, eccetera, eccetera, a impedirgli il passaggio, insomma, a bloccare questa colonna. E a Pontlatz questi signori qua riescono, come dicevo, a sbaragliare i francesi. Da quell'episodio lì, finalmente, in Nord Tirolo si accorgono che potrebbero utilizzare davvero, si organizzano bene, gli Schützen per difendere la patria. Tant'è vero che, appunto, qui nasce il famoso sistema ibrido. Fa una piccola pretone dietro di un mezzo minuto. Aveva tentato la Claudia de' Medici di organizzare, di metterli dentro. Ci prova dal 47 al 61, provano a farla questa cosa, ma non ci riescono. Dal 61 fino al 1663, i Schützen vengono di nuovo tirati fuori. Si erano accorti che c'erano, no? Ci sarebbero stati. Però le difficoltà legate a questo fatto, come dicevo, nasce il sistema ibrido tirolese, il che significa che Vienna metterà la milizia ai miliziani e li pagherà lei, divise, tutto quello che serve, e Innsbruck metterà gli Schützen da aggregare alle compagnie della milizia, 12, 15, 20, a seconda di, ce n'erano sempre 7, 8, 15, 20, a seconda delle compagnie di quando erano grandi. Era un sistema ibrido, unico esempio in tutta Europa. Non esiste qualcosa di paragonabile, perché altrove il sistema basato sui proprietari che hanno dovere di difendere la patria, Inghilterra, Olanda, Baviera hanno tentato, era fallito, perché non c'era il bacino di, diciamo così, di popolazione da arruolare a pagamento da parte di chi aveva i soldi e il fucile per mandarli a combattere. Mentre in Tirolo c'erano i contadini che potevano essere arruolati al posto dei contadini, la popolazione rurale, il proletariato rurale, che poteva essere mandato a sparare al posto del contadino ricco e difendere la patria così, mancando questo sistema di autonomie locali, di gestione del territorio diffuso con persone libere, ovunque si era tentato questo principio, fallisce. Resiste soltanto in Tirolo, e nasce il sistema ibrido con battaglie atroci da Vienna, che voleva eliminare questa cosa medievale. Ma chi sono questi? Abbiamo i battaglioni in linea, abbiamo 60.000 persone da schierare, abbiamo la cavalleria, abbiamo l'artiglieria, ma questi sono matti, sti tiroli, cosa vogliono con 4 fuciletti? Invece, proprio perché grazie al Landliebel, ecco quindi l'importanza, i tirolesi difendevano la patria complessiva, cioè la patria austro-ungarica, degli Asburgo, non è ancora Austro-Ungheria, ma voglio dire, la patria, svolgevano il loro dovere difendendo il Tirolo, e potendolo difendere molto bene in Tirolo, perché avevano imparato a sparare questi, ma davvero sapevano sparare, eccoli qua, sapevano sparare bene, con i famosi Stutzen. quel 10% di persone aggregate alla milizia, con questi Sturzen qua, riuscivano a fermare tutti gli eserciti del tempo, siamo nel 1700 del XIX secolo, che non potevano usare la cavalleria, che non potevano usare l'artiglieria, che non potevano mettere i battaglioni in linea, cioè quando c'erano 8.000 persone che avanzavano, perché anche soltanto questi gli Sturzen che sapevano sparare. Poi vi faccio vedere il prossimo. Vado avanti. No. Gli Sturzen che sapevano sparare, sparavano soprattutto ai comandanti. Ma li beccavano tutti, no? Perché questi si mettevano, non sapendo che esistevano fucili di precisione, chi andava e si mettevano magari i fucili, diciamo così, tipo tradizionale, i primi fucili che vengono distribuiti negli eserciti. Del XVIII secolo sono fucili senza mirino, dove la pallottola usciva, perché era più piccola e insomma i tubi non erano chissà che, usciva così, sicché tu sparavi lì e la pallottola poteva andare in un raggio di 12 gradi, poteva andare in tutte le direzioni, cioè, perché usciva così, mentre questi con le canne rigate, con i loro Sturzen, allora i comandanti si mettevano a 50 metri sapendo che non sarebbero stati mai presi, ma invece questi li prendevano. E infatti avevano il terrore tutti gli eserciti dei quali combatterono tirolesi, degli Sturzen tirolesi, che si vestivano in modo estremamente, si facevano vedere. Il fatto che avessero dei costumi appariscenti era perché guardate che ci siamo anche noi, e quindi raccomandate, tenetevi coperti, perché sennò vi facciamo fuori tutti gli ufficiali. E una volta fatto fuori l'ufficiale, quello che va a combattere perché è stato pagato per combattere, e se ferma e aspetta che passa agli altri, insomma non va avanti in nome della patria. Ok, andiamo avanti. 1738, eccolo qui, si vede quindi qui, è la data, è qui in fondo, c'è anche in italiano, non l'ho trovata, ma c'è anche in italiano, questa perché vale anche per il Trentino, Ordnung der für die gesamte Schießstände in Tirol. Perché per tutto un secolo, dal 1703 sostanzialmente al 1800 grosso modo, se riesco a trovare, ci sono tutti gli imperatori che sono a favore del mantenimento del sistema ibrido tirolese. Cioè ci sono tutti gli imperatori che faranno muro contro le alte gerarchie militari di Vienna, che volevano eliminare questa cosa medievale, ma non volevano saperne niente, perché oltretutto tutti gli ufficiali erano nobili, tutti, erano di stazione nobile, e si chiama Standesdünkel, la parola tedesca, era la puzza sotto il naso dei nobili di dover combattere a fianco di un contadino che magari era il capitano della cosa, magari dovevano prendere ordini da gente che non era nobile. Quelli erano abituati, essendo i loro soldati servi del gleba, a mandarli avanti a bastonate, ragazzi, i mujiki, come si chiamano, russi delle guerre del Settecento, erano mandati avanti con il nervo di bue, andare a farsi ammazzare, con gli ufficiali che si divertivano e si vantavano di essere brutali con i propri. Questo in Tirolo non avveniva. Vi rendete conto quante antiche siano le radici di questa diversità tirolese che ci ha portato passo fino ad avere unico, diciamo così, esperienza in tutta Europa, un Landeshauptmann espresso da una sezione di contadini. Perché queste sono le radici. Perché questa cosa non esisteva, insomma parliamo di Schwitz, ma non esisteva da nessun'altra parte. Ecco, come dicevo, c'è l'Ordnung der Schießstände, da d'ora in poi lo sport dello sparare, visto che vengono istituiti, eccolo qui, lo sport dello sparare diventa uno sport nazionale tirolese. Questo è un po' successiva questa cosa, ma qui si vede nel prospetto dei casini di tiro dal 1825, quindi già un po' dopo, cent'anni dopo, al 1913, ci saranno 66.000 Schützen e 168 casini di tiro, di cui almeno 60 anche in Trentino. c'erano come si chiama, casini di tiro anche nelle birrerie, come esiste oggi, insomma, il tiro del bullying, c'erano casini di tiro a Rovereto, dove che la post c'era anche un casino di tiro interno, la tua bella, stai privati. Questo è il numero di, quindi 65.000 Schützen, fin dai tempi che sono l'evoluzione, diciamo così, a partire dal 1703, però non da prima, 1703, di questo sistema che è diventato il sistema ibrido. Vado avanti perché, ecco, arriviamo a questo punto qua. E poi ho quasi finito. Quanto tempo ho ancora? 2 minuti? No, ma no, non voglio poi. Le trovate nel libro queste cose poi anche. Gli Schützen finiscono d'improvviso e perderanno tutto il loro potere di contrattare con Vienna la condizione, una loro condizione speciale, particolare, nella difesa complessiva del sistema austro-ungarico, in questo caso sì. Quando vengono introdotte le cartucce, che sono queste, questa cosa qua manda in pensione gli Schützen. Perché d'ora in poi anche il più pirla e il più stupido del, diciamo così, no, per carità, no, del ragazzotto tirato su dal basso fondo al quale dai un fucile di precisione come questo, riesce a fare meglio di quanto facessero in precedenza gli Schützen, che si erano esercitati in centinaia di tiri per conto loro nel coso. Questo è il momento in cui questa cosa qui manda in pensione Landlibel, non altro. Cioè il fatto che i tirolesi perdono nei confronti di Vienna qualunque diritto di difendere, diciamo così, non potevano per esempio essere mandati a combattere fuori, e insistono i tirolesi: non voglio che i nostri, come si chiamano, vengano mandati nei regolierte battaglioni, nei battaglioni regolati a difendere la patria austro-ungarica fuori dal Tirolo. Non vogliamo, c'è dietro nell'Andiben, ma questo lo manda in pensione, perché dice. E lo manda in pensione anche un'altra cosa, che è questo, che è questo è un proiettile di artiglieria. Si vede il cannone quando arriva, non avendo più una palla, semplice palla, ma esplodendo, questa è la carica di lancio, no? E mentre qui col percussore c'è la carica che esplode quando arriva, anche questa cosa qua toglie qualunque potere, diciamo così, di difensivo agli Schützen, che in precedenza ce l'avevano avuto. Allora, le cartucce di cui vi ho parlato prima, questa cosa e questa cosa qui, si indica, questa è la fine. Finiranno tutti i privilegi tirolesi. I tirolesi saranno obbligati anche loro, come tutti gli altri tirolesi, ad andare a combattere nei battaglioni regolari in giro per tutta dove sarà necessario. Non potranno più richiamarsi il Landlebel. Ci sono un sacco di leggi dopo l'860 che. L'ultima esperienza fatta da una compagnia di Schützen, in questo caso del Nord Tirolo, è l'esperienza fatta a Nivelsorda, nella terza guerra di indipendenza italiana. Questo è un esempio di una compagnia di Schützen che erano volontari, perché altrimenti non avrebbero potuto uscire dai propri confini grazie all'Antibel. Potevano dire: io vado fino qua e non mi muovo di un passo, e nessuno poteva metterli in prigione, cose che altrimenti lo facevano, se uno diceva di no a un ordine dato dall'alto, perché l'Antibel diceva che non si. Questi erano tutti volontari, quindi essendo volontari hanno accettato di andare a combattere fuori, e l'ultima compagnia di Schützen, armata ancora dei vecchi Stutzen, che va a combattere al di fuori, ed è l'ultima. Nascono a questo punto gli Schützen moderni, nel momento in cui il ruolo militare degli Schützen, diciamo così, quelli che avevano servito la patria, è finito. Nasce un'altra cosa. E qui ho scritto che diciamo così, perso ogni significato militare a partire dalla seconda metà del secolo XIX, nascono gli Schützen moderni, che si chiamavano, anche questa è detta scherzosamente, ma non l'ho detta io, è scritta in testi tedeschi, Parade Schützen, cioè Schützen da parata, o Schönwetter Schützen, Schützen da bel tempo. Perché naturalmente, quando, anche oggi, quando fanno grossa difficoltà gli Schützen ad andare fuori d'inverno, perché hanno se non si mettono la cosa di lana sopra e del battuto, cioè si ciappa caffreddo, no? Si devono stare fermi. Me l'ha detto questo signore qua, che è il capitano degli Schützen il maior delle scienze della Bassa Tesina, il signor Binnenhofer, che mi ha dato l'intenzione di pubblicare anche questa cosa, mi ha detto: ma quando siamo fuori freddo, prendiamo d'inverno, prendiamo anche delle belle giassate, per così dire. Ecco qua. Allora, detta questa, come dice, vi faccio vedere soltanto due immagini, perché poi torno indietro. Se avrete pazienza, ancora due cose. Allora, questi sono esempi di Schützen disegnati, diciamo così, sull'onda di quello che effettivamente gli Schützen erano diventati nell'iconografia e nei miti anche del popolo tedesco complessivo. Per voi, non ho parlato di Andreas Hofer, ne parlo nel libro, ma Andreas Hofer fa parte di questi europei in cui ci saranno gli Schützen, eccetera, eccetera. Ma voi sapete anche che Andreas Hofer per 40 anni fu osteggiato dall'Austria-Ungheria, dagli imperatori, che non volevano metterli, non volevano essere quel delinquente, quel sovversivo che ci ha rovinato tutta la nostra politica estera in contro la Francia. Insomma, da un lato c'era Andreas Hofer che sparava, che si faceva sparare, che ammazzava e si faceva ammazzare al Berghisel. E dall'altra parte c'era l'imperatore, la figlia dell'imperatore austriaco, che sposava Napoleone. Prendete conto di questa cosa? No, voglio dire, per 40 anni, grosso modo, Andreas Hofer è bandito. Anche dal teatro non potevano farlo. Dopo, successivamente, viene anche la ripresa, sostanzialmente sull'onda del movimento nazionale pangermanico e sull'onda del romanticismo, il mito del contadino, tutte cose qua, cioè il mondo contadino, la fonte intonsa e pulita, più limpida delle nostre tradizioni, tutte cose che poi ci sono legate a queste immagini degli Schützen che sono andati a sparare contro che tornano dalle guerre napoleoniche. Nasce nel 1968, ci deve essere la data, eccolo qua, qui sotto c'è la data, eccola qui, la vedete? Sostanzialmente come se gli eroi della resistenza, anziché nel 1945, avessero incominciato a dipingerli nel 2000. La nostra resistenza italiana, questi, se avessimo incominciato a scoprire la resistenza e a fare delle immagini iconografiche di quanto era bella la resistenza 60 anni dopo che c'era stata, cioè nel 2005, facciamo così, no? Per dire. E allora ti domandi: ma quanto c'è di autentico, diciamo così, in miti che sono stati in parte anche costruiti? Guardate che io non sto dicendo che il mito di Schützen è un mito sbagliato. Io voglio dire, se leggete il libro, vi ho detto più di una volta che sta cosa, la difesa iberica è unica in Europa, che i pozzi ai quali attingono i tirolesi sono profondissimi, hanno 700 anni di storia dal cui attingere per le proprie tradizioni. Se ne sono, voglio dire, la coscienza di sé è fatta anche naturalmente di Schützen e di quello che ha significato anche da partire dal 1960 in poi. Però se voi fate un esempio di Schützen di oggi, con una compagnia del Nord Tirolo, da come erano disegnati gli Schützen una volta, questa è una cosa che è nata dai tempi di Andreas Hofer. Questa ve l'ho fatta vedere, è del 1703. Questa è l'immagine che ne fa De Fregger, la vedete qui sotto, ne fa De Fregger 60 anni dopo. Guardate com'era, questo è Andreas Hofer, guardate che non sono gli stessi pantaloni, anche qui non sono gli stessi pantaloni. C'è un signore che si chiama Felix, che è uno storico, che dice: guardate che l'iconografia attuale del Schützen non è copiata da questa immagine qui, è copiata da qualcosa che il grande De Fregger, grande pittore, si è immaginato dovessero essere gli Schützen. È vero che c'era qualche diciamo così, costume tradizionale che aveva i pantaloni così, è vero, ma non è che tutti gli Schützen di tutto il Tirolo, compreso il Trentino, avessero gli stessi pantaloni. Ecco, per dire che questi miti che fanno parte dell'identità vengono costruiti anche ma sono giustificati. Se pensate che il mito della Svizzera, Guglielmo Tell, è nato 200 anni dopo e pare che storicamente Guglielmo non fosse esistito, per dirvi, hanno fatto dei convegni internazionali, voglio dire, gli storici svizzeri hanno scritto biblioteche intere sulla giustificazione del mito di Guglielmo Tell, di Arnold Winkelried e i miti loro, della loro identità, no? Pensate agli Stati Uniti che devono fare che sono un misto di popoli dagli arabi agli asiatici agli occidentali, agli afroamericani, agli europei, ai caucasici, che sono un misto, che devono fare della bandiera il mito unificante, no? Per queste cose qua. E quindi io non sto dicendo, però sappiamo che gli Schützen, così come li vediamo oggi, non hanno a volte niente a che fare con quello che erano stati gli Schützen davvero. Anche qui è un'immagine di Markenthaler, questo non la dico perché è meglio che non la dica, ecco, basta. Okay. Ho finito. Thank you.